Il rosso del sole tramonta negli occhi tuoi e i miei capelli sono avvolti dalla luce nera della notte laggiù oltre il mare l'infinito la luce troveremo raccogli il passato in un pugno di lacrime ora nascondi il ricordo dei sapori lontani in un angolo deserto del tuo cuore quando l'ombra del passato senza tregua tornerà corri verso il sole e le si allontanerà il sole su nel cielo di colpo sparirà l'ombra del passato del tutto svanirà ma la notte il suo silenzio i tuoi dubbi accrescerà non restare lì da sola con la tua ingenuità al giorno che è passato il tuo sguardo non donare guarda fisso su nel cielo nuovo sole sorgerà sorgerà un nuovo sole a questa notte l'ombra il tuo pensiero sole sorgerà